delicata e melindrosa, mimosa, mimosa, mimosa, onde os che te pensa sin formosa, de te perfume d'uma rosa, mimosa, maldosa. Quando tu passo per la strada, per la fresca madrugada o per la notte luarada, mia alma fica maguada. È una morta apoteosa, maldosa, mimosa. Vela, es mia luce, es mia strela. Fada, davate tutto sempre nada. Lina da, amora sì che più agito, e de cantar sem verse prosa. Per la fresca madrugada, per la notte luarada, mia alma fica maguada. È una mia morta apoteosa, maldosa, mimosa. Vela, es mia luce, es mia strela. Fada, davate tutto sempre nada. Cantar per verse prosa.